Parliamo con l'elefante di Giuliano Ferrara. 800 24 0024. Bene, parliamo della politica italiana, ma con un po' di respiro, insomma, cercando proprio di non soffocare nelle minuzie. La politica italiana è fatta di fenomeni. Noi siamo alle prese da circa 15-16 anni con il fenomeno Berlusconi, fenomeno tenace, resistente, che ha ammaliato, stregato o avvelenato, a seconda di come la si pensi, la coscienza pubblica nazionale. Un fenomeno che tiene, che si è radicato nella nostra storia, eccetera, eccetera. Due anni fa, per dire di un fenomeno più effimero, Veltroni fu l'uomo delle speranze per molti italiani, fece le primarie, convocò e ottenne un buon risultato, milioni di cittadini a contribuire a eleggere per la prima volta nella storia del nostro sistema politico il segretario, il capo di un partito, il leader dell'opposizione, poi tirò fuori la vocazione maggioritaria, ma soprattutto, e cioè il fatto di andare da solo alle elezioni, di avere questa grande ambizione di vincere senza le piccole alleanze e i compromessi della vecchia politica, ma soprattutto disse: Partito Democratico è una roba all'americana, è tutta un'altra forma politica, vi do tutto un altro tipo di speranza nel ceto, nella classe dirigente. E il fenomeno è tramontato, non è andata bene e adesso sono lì che insomma maneggiano i cocci e hanno ridotto l'ambito delle loro ambizioni. L'ultimo fenomeno importante, rilevante, interessante è la trasformazione di un leader piuttosto banalotto nella sua parabola, nella sua storia, Gianfranco Fini, un leader diciamo che aveva sostanzialmente come suo destino naturale quello di fare il delfino di Almirante, poi il delfino di Berlusconi, così vivere negli interstizi di ciò che aveva ricevuto, ereditato nella sua storia, il neofascismo, il postfascismo, chiamatelo come volete, insomma la storia della destra italiana, ma senza brillare, senza avere una chiara direttrice di marcia, senza sprigionare alcuna suggestione. Fini è diventato invece, questa è la mia idea e la mia opinione, interessante. Perché? Non perché ha vinto, non perché ha radunato intorno a sé chissà quali forze, ma per il motivo contrario, perché si è isolato dai suoi colonnelli, dal suo apparato, si è collegato con gruppi intellettuali che formano un piccolo ristretto circolo, un club. Probabilmente sta cercando di selezionare una nuova classe dirigente all'insegna di idee che lui coltiva e di gesti e di modi di essere, non solo di idee, e che sono da un certo punto di vista esplosivi. Bisogna discutere, ci vuole pluralismo, non ci può essere una leadership monarchica a destra, il riferimento naturalmente a Berlusconi, ma poi fondamentalmente tutto il resto, cioè va alla Fiera del Libro e firma come un leader libertario sulla scena internazionale per i blogger oppressi da Fidel Castro, ma lo fa come fosse un gesto di apertura ai ceti intellettuali, protestatari e dissidenti di sinistra. Entra dentro una storia, la critica al castrismo della gauche europea, oppure fa tante altre cose che hanno quel senso, insomma entra dentro, per esempio vede i gay, niente di strano, niente di particolare, niente di così curioso, però nel modo in cui lui lo fa, avendo detto appena 8-9 anni fa che un insegnante gay a scuola di sua figlia non l'avrebbe mai voluto, è esplosivo. E poi la famosa cerimonia con la kippah in testa in cui definì il razzismo, le leggi razziali, il male assoluto, insomma Fini sta elaborando sempre di più in modo sistematico, giorno dopo giorno, con una certa cura formale anche, idee che appartenevano o sono appartenute in parte anche a certe venature della cultura di destra, venature libertarie che ci sono sempre state, ma che fondamentalmente appartengono diciamo a quella che si può definire, per chi la ama, la grande cultura democratico-repubblicana dell'Italia moderna e dell'Europa moderna, e per chi non la ama, la correttezza politico-ideologica. Questo fenomeno è rilevante perché in questo comportamento Fini, invece che diminuire agli occhi dell'opinione pubblica, degli osservatori, eccetera, cresce, che poi questo possa avere una ricaduta elettorale di consenso effettivo, che possa fondare una leadership del futuro, non è affatto detto, però intanto cresce se non altro come interesse della politica e per la politica. E per questo ne discutiamo oggi con Pietrangelo Buttafuoco, scrittore di grandi romanzi, l'ultimo è L'ultima del diavolo, con Pierluigi Battista, vice direttore del Corriere della Sera. No, mi hanno messo la vecchia edizione. Pierluigi Battista, non vice direttore del Corriere della Sera, ma editorialista del Corriere della Sera, e Angelo Mellone del Giornale. Ultimo libro, cara Bombo, Berlusconi spiegato a mia figlia, edizioni Marsilio. Bene, parliamo della svolta di Fini, che è diventato un leader con idee, diciamo così, di sinistra, democratico-repubblicane, non Prezzolini, non Malaparte, ma Zagrebelsky oppure Bobbio. Ecco, sostanzialmente questo è il senso che dà Fini, di aver abbracciato senza riserve una visione della Repubblica, dello Stato, della laicità, del partito politico e della sua funzione, del rapporto tra classe dirigente e popolo, molto lontana da quella di Silvio Berlusconi, che è populista, a suo modo è innovatrice, è comunque anomala, composta istituzionale, un leader istituzionale con una seria cultura, diciamo, liberal-democratica, nel senso più classico e tradizionale del termine, senza più le vecchie radici che sono state completamente sradicate, che erano nella cultura di destra. C'è chi dubita della possibilità di questa operazione, e uno di questi dubitatori è Pietrangelo Buttafuoco. D'altra parte gli scrittori un po' devono anche dubitare. Prego, Buttafuoco. Ne dubito perché, giustamente, come ha detto prima, non c'è più Prezzolini, ma piuttosto Bobbio, Zagrebelsky. Vuol dire che non è stata tagliata la radice che poteva essere più imbarazzante, la radice che affonda nel totalitarismo, che affonda nell'autoritarismo, affonda in quella che è la guerra civile, ma è stata tagliata l'unica radice vera, effervescente, dinamica, moderna, che poteva aprire, non dico al dialogo con la modernità, ma comunque far sentire contemporanei al proprio tempo che è stata la lezione inascoltata, che ebbe anche un grande successo non solo editoriale ma anche di radicamento nella società italiana, che fu la destra, appunto, che sapeva salutare i successi di mercato dei Longanesi fino ad arrivare a Guareschi, che era anche la riflessione di Prezzolini, il primo a portare l'elemento America, l'elemento Stati Uniti d'America in quello che era il grande magma della destra naturaliter, quella che veniva, che era quasi un sentimento comune, non un'appartenenza ideologica. Ed è stato tagliato tutto un bacino che era quello di un'umanità italiana, che non era certamente quella percepita di cittadini di serie B, ma che avevano una giustificazione, una logica, che spesso veniva ostacolata proprio da chi, come lui, ha costruito un proprio successo radicandosi al contrario nel nostalgismo, nel peggiore e più ridicolo dei nostalgismi, con i quali ha creato un orticello che l'ha condotto, e ce lo fa ancora una volta definire, altro che Berlusconi, come il più vecchio dei leader italiani. Cioè, lei dice, Fini è stato nella sua carriera fondamentalmente affetto da nostalgismo politico, mentre viveva in una comunità, la destra italiana, anche la destra missina, che era molto più complessa culturalmente, molto più complessa. Interagiva con questi filoni di destra intellettuale, letteraria, altro che morale. Erano giornali che avevano nel loro bordereau Eugène Ionesco, avevano Vintilla Oria, avevano fior di riferimenti di quella che poteva essere anche l'area liberal democratica, erano anche riferimenti creativi, quindi intelligenti. Lei sente il passaggio di Fini in zona Zagrebelsky strumentale, lo sento strumentale, però vorrei specificare la pesca delle occasioni fu l'accusa che gli rivolse un grandissimo nella memoria del popolo missino della destra, che fu Beppe Niccolai. E quando si parla di quelle che sono le svolte di Fini, e quindi l'apertura verso il mondo istituzionalizzato degli omosessuali, quindi quando si parla di ragionamenti altro che condivisibili sui temi dell'immigrazione, del multiculturalismo, erano cose che Beppe Niccolai all'interno del movimento sociale, proprio in quella che era considerata anche lo sfondamento a sinistra, aveva fatto, aveva saputo fare, proprio quando invece lui e il suo gruppo dirigente gli scatenava una violenta controffensiva. Però non voglio parlare del passato, voglio dire una cosa: io sono convinto della sincerità della sua svolta. Io pure. Ne sono convinto, però ritengo che sia strumentale, nel senso che non c'è un'adesione convinta, proprio perché ancora una volta ricade nella pesca delle occasioni. Se fosse più fruttuoso immaginare un posizionamento. Non c'è dolore, non c'è trasformazione, no. Non c'è elaborazione di una cosa che è tua. Lei dice è un distacco, anche con un elemento probabilmente così amaro di vita personale, un distacco, un salto nel vuoto e la ripresa di un'identità diversa da quella del passato. Mellone, è vero questo o no? No, nel senso, io rispetto a quello che diceva Buttafuoco, opinioni rispettabili, ma anche a quello che diceva lei, direttore, non concordo su un passaggio, il primo passaggio logico, cioè quello di dire buttiamo via Prezzolini e prendiamoci Zagrebelsky. No, non è un passaggio nella sinistra, in una sinistra vagamente ipocostituzionale, è un lavoro di tipo più di cultura politica, come dire, che di azione politica, che è quello di cercare di riflettere su una possibilità. In Italia può esistere quello che esiste da altre parti, c'è una destra repubblicana, una destra che costruisca intorno alla Repubblica come amore della libertà comune il perimetro dell'appartenenza. A questa destra l'Italia non ce l'ha mai avuta, per una serie di ragioni, insomma, Pietrangelo prima ne elencava alcune. Sono ragioni della bellezza della storia della destra italiana, ma sono anche ragioni della bellezza della storia, dell'anomalia della destra italiana. Allora, io non penso che sia un problema di agire per sottrazioni, non penso che sia il problema di sostituire Bobbio, cioè di sostituire Prezzolini con Bobbio. Spieghiamoci bene, noi la stiamo facendo difficile, ma secondo me interessante anche per i nostri ascoltatori, per questo motivo, perché altrimenti la discussione su Fini, lo dico per sgombrare, certo, si riduce a questa cosa veramente Berlusconi, pestilenziale, il traditore, il tradimento, e allora io ricevo anche al foglio tutte le lettere di gente angustiata che dice ma questo Fini, il convertito, che cosa orrenda, doveva essere invece disciplinato, organico, fedele al vecchio progetto, insomma chiunque poi alla fine pone un problema viene bollato come un... e questo non è bello, no. Noi cerchiamo di andare a fondo, prego. Posso fare anch'io riesco? Ci sono due accuse che vengono fatte di solito a Fini. Una è quella di essere traditore del suo passato. Io dico sempre nella stessa radice, cioè il tradimento, il trad, quindi il prefisso, c'è anche la parola tradizione, per cui bisogna sempre riflettere anche su questo. Secondo, quindi o si dice di aver tradito la sua cultura politica, o gli si dice di essere un traditore di Berlusconi perché fa l'opposizione. E che le due cose non vanno, insomma, dovrebbero fare a cazzotti l'una con l'altra. Comunque, il problema di Bobbio, Zagrebelsky o di Prezzolini, penso che il problema di Fini oggi sia quello, appunto, ripeto, di fare una serie di riflessioni che anziché affondare le radici nel dopodomani, affonda le radici in un discorso progetto, cioè immaginiamo l'Italia fra 10 anni. L'Italia fra 10 anni, che sarà molto diversa, il discorso sulla multietnicità, che è un dato di fatto e non sul multiculturalismo, che è un valore secondo me fortemente opinabile, questo è un discorso che bisognerebbe fare, non è un discorso rivolto al dopodomani. Cioè, se noi continuiamo a prendere Fini, questa è la critica che io faccio intanto a qualche critico di Fini, e a spalmare le sue dichiarazioni sull'ottica del giorno dopo, continuiamo a non capirlo. Lui, è vero, una cosa, se tanti dicono lui ha capito, non sa il delfino di Berlusconi, è vero, disse lui tempo fa, se non mi sbaglio, tipo che i delfini finiscono spiaggiati, quindi insomma vanno a fare sempre una brutta fine. Io, per lanciare una piccola provocazione, direttore, lei prima parlava di politica, di Delfini che abbraccia il politicamente corretto. Ho visto a destra esattamente l'opposto. Cioè, il politicamente corretto di destra è incarnato da Berlusconi, è la pancia del paese, il populismo, la cosa, cioè l'idea che la destra sia la caricatura che da sinistra se ne fa. Possiamo sentire su questo, certo, Battista, non è male questa cosa. Battista, ha sentito cosa dice Mellone? Sì. Dice, per noi Fini sta approdando appunto Bobbio, Zagrebelsky invece che Prezzolini, Longanesi, Guareschi o comunque insomma poi adesso radici anche più consistenti se vogliamo di una cultura di destra, ha aderito a questo schema, diciamo, all'insegna dell'ideologicamente, culturalmente, politicamente corretto. Lui dice no, veramente per noi di destra è il contrario, lui rompe il nostro politicamente corretto e fa scandalo. Lei che pensa di questo? No, non ha tutti i torti, anzi credo che abbia ragione. Ma io penso intanto che nella valutazione delle mosse, del percorso, dell'itinerario di Fini vanno dette due cose. Innanzitutto bisognava aspettare molto tempo, ma alla fine è arrivato finalmente dentro il centrodestra qualcuno che dica di no, che vota contro. Non c'è, diciamo, possibilità di una democrazia normale in cui dentro una coalizione, uno schieramento politico ci sia un dissenso. Questo non è per un fatto, diciamo, estetico, ma perché ne va della qualità democratica, appunto. Cioè, tutto il discorso, tant'è che non lo fanno più nemmeno nel centro-sinistra, l'idea che la destra c'ha un padrone e basta, che sono tutti dei sudditi e così via. Quindi questo da una parte è comunque il benvenuto, dall'altra è la rottura di uno schema che ci stava addosso da 15 anni, che era sempre quello. Allora, una leadership incontrastata che è quella di Berlusconi, poi due delfini che si contendevano la leadership del futuro, il giorno in cui Berlusconi sarebbe uscito di scena, un'inquieta attesa in cui ogni tanto si faceva il signor no, ogni tanto ci si metteva di traverso per fare qualche cosa, ogni tanto sì, si alzava un po' la voce, si dicevano parole un po' pesanti, ma alla fine lo schema era sempre quello, no? E lei dice cioè, Fini innova in questo schema, determina un salto, non è più così, non c'è più quella attesa di routine, diciamo, no? Beh, questo palesemente non c'è più, certo. Non c'è più, oltretutto, come dire, non c'è più alleanza nazionale da questo punto di vista, non solo per il fatto formale che è entrato dentro un unico contenitore politico che è il Popolo della Libertà, ma non c'è nemmeno più lo schema di Fini e dei suoi colonnelli, certo. La foto del lei questo lo ritiene un progresso, Battista? Lei questo lo ritiene un progresso? Ma assolutamente sì, le foto dei ragazzi di via Milano e Gasparri che ha accovacciato per terra e storace. Butta fuoco, almeno politologicamente lo ritiene un progresso. Non moriamo di noia presa Fini, moriamo, Casini, no, Casini, però Fini, Fini. Una cosa Casini. Che non ho capito veramente, lo dico in assoluta sincerità, quali sono queste benedette cose nuove che sta portando Fini? Al di là dell'aderire alla correttezza politico-istituzionale, secondo me è solo un passo indietro, cioè Berlusconi, per quanto sia... Mellone però ha detto, aderire alla correttezza politico-istituzionale, fare il presidente della Camera nel segno di una visione del futuro multietnico di un paese, eccetera, e dire tutte le belle cose che lui dice in uno schema, diciamo, di ideologia liberal-democratica, è la rottura della correttezza politico-ideologica secondo la lezione di destra. Cioè lui è un secondo la lezione di destra, però aderendo a quella che poteva essere la noiosa lezione di sinistra, che è stata mandata al macero da anni e anni di berlusconismo. Vorrei dire, Berlusconi forse ha ragione sicuramente Cacciari quando dice che è un disastro estetico, e quindi possiamo avere tutte le riserve critiche nei confronti di Berlusconi e del berlusconismo. Però dicono che anche Cacciari si tinga i capelli, sarà vero o no? Secondo me sì. Lei Meloni anzi non fa la barba. O forse a suo favore va il fatto che anche Piero Buscaroli, che è suo cugino, c'ha i capelli nerissimi. Allora forse è una cosa di famiglia, non lo so. Vabbè, scusi, devo dare la pubblicità sul più bello, nel vivo. Bene, la conversione di Fini. Andrea da Massa Carrara. Andrea? Sì, mi sente? Sì, certo che sento. Allora, io cercavo di dare una visione un po' più ampia sul percorso che sta facendo Fini, perché secondo me non c'è nessun contrasto con Berlusconi, ma è tutta una cosa che, secondo me, non dico preparata, però che è da molto che ci stanno pensando. Infatti hanno creato il Partito Unico e altre cose che secondo me portano a questo. Infatti secondo il leader carismatico Berlusconi non potrà durare in eterno, e secondo me si sta cercando di creare un'alternativa. Infatti è stato messo come Presidente della Camera e dà la possibilità a Fini stesso di esporre i propri temi. Vabbè, questo giudizio secondo cui Berlusconi non durerà in eterno, me lo segno, lo passo a Berlusconi e la verranno a prendere a casa, i carabinieri. Arrivederci Andrea, grazie. Rocco da Roma? Buongiorno a te e buongiorno ai miei ospiti. Io volevo osservare una cosa. Vedo con quanta rispetto e attenzione lei segue questo percorso di Fini. Già pochi giorni fa in questa trasmissione lei ne ha parlato, sì. Corregga se sbaglio. A me due conversioni, che quindi fanno un totale di tre vite politiche nell'arco di un ventennio, grosso modo, a me sembrano troppe. La metto giù un po' semplice, forse un po' banale, però... Semplicemente mi sembra qualche cosa di un po' di ripetitivo, se non di compulsivo, che difficilmente resiste al passaggio della ricerca del consenso elettorale. Lei ricordava l'esperienza con Segni di 10 anni fa, iniziative che fanno fatica poi ad attecchire, e non per caso, perché secondo me scontano un vizio di origine. Diciamo che quantomeno speriamo che questa volta non la costringano a cambiare tipo. Ecco, ecco, lei non ci crede, Rocco, benissimo, io rispetto naturalmente, legittima il suo parere, la sua opinione, però io voglio dire una cosa, insomma, l'Italia ha avuto negli anni 20 e 30 un regime politico colossale che naturalmente è stato poi modello in Europa, fra tragedia, un qualche elemento di farsa, dramma e anche naturalmente realizzazioni, modernizzazioni che si sono diciamo determinate, perché nessun regime è poi male assoluto dal punto di vista della sua funzione e procedura storica. Ha avuto il fascismo, ma è finito tantissimi anni fa, 60 anni fa, oltre 60 anni 65. Fa 65. Allora, è quasi un secolo che è finito il fascismo. Allora, Fini, lasciamo stare adesso specificamente, però cioè, l'idea che anche in Italia senza si crei, si determini una cosa nuova che è l'identità di una destra capace di interloquire con tutti, di essere dentro le cose per programmare il futuro, non è illegittima come aspirazione. Il problema è capire se questa è la via, se questo è il modo, diciamo, per Fini. Se esistono delle alternative, Battista, ci potrebbe essere una leadership di destra alternativa? Lasciamo stare Berlusconi, che non è di destra né di sinistra, è Berlusconi. Dico, una leadership di destra per il futuro, oggi, in Italia, nella Repubblica, con queste istituzioni, con questo modo di formazione del consenso, con questi giornali, con questi libri, con questa tradizione culturale, diciamo che non sia quella di Fini, non l'adesione al paradigma Bobbio-Zagrebelsky. Un'altra, quale? No, io non credo, non vedo, non è che si crea dal nulla un'alternativa, una cosa che non esiste pure nella storia. Io, se posso tornare sulla storia del dolore, perché effettivamente è vero, cioè a me piacerebbe moltissimo se Fini, avendone tempo e la possibilità e la capacità, scrivesse un libro o un libro intervista, se la cosa pare troppo gravosa, in cui lui spiegasse perché, dove, quando, esattamente come, per influenza di quali letture, per influenza di quali lui è cambiato così. Ma questo è un dramma italiano, non è soltanto un dramma di Fini. Cioè, nel senso che noi tutti diciamo, ma è vera, ma il PC è cambiato veramente, l'MSI è cambiato veramente, sono 15 anni che andiamo avanti su questa storia, nel senso che, e questo immagino che diciamo anche autobiograficamente per lei questo qualche cosa abbia una risonanza, è che noi non è vero che siamo tanti ex, siamo tanti post, cioè persone, gruppi, partiti politici che hanno sovrapposto un'identità a un'altra, finita una fase, un'adolescenza, come l'adolescenza, alla fine si finisce di essere adolescenti e si diventa adulti. Dopodiché noi siamo post adolescenti, è tutto un po' così, nel senso che non c'è dolore da nessuna parte, questo è la per cui uno resta sempre con l'interrogativo, ma è autentica, ma sì, questo è l'equivoco del post. Io invece mi vanto di essere ex e anti, ero comunista, poi sono diventato anticomunista ed ex comunista, e tale voglio restare, vorrei morire così. La cosa interessante è spiegare come si diventa ex. Perché il problema non è tanto dire io la penso diversamente da prima, benissimo, ma come mai prima la pensavi con un modo? Vabbè, dobbiamo chiedere a Fini, conto fino in fondo, diciamo, questa sarebbe l'idea, qualcuno dovrà farlo, un giornalista di cui lui si fida. Repubblica potrebbe, visto che va di moda adesso. Repubblica fa molte domande, però sono domande un po' pettegole. Ma no, Dio devo ce dirlo ne scampi, a zio no? Mauro, che ha ragione a difendere lo suo spazio d'autonomia da Berlusconi, che fa dei comunicati da Palazzo Chigi, neanche fosse il Minkul Pop contro i giornali. Però, detto questo, insomma, diciamo, quelle domande sono domande che andavano bene su Novella 2000, quelle di Giuseppe D'Avanzo, non su Repubblica, non è una grande inchiesta anglosassone, anche se ha giusto per fare la concorrenza all'altro giornale della Real Casa, certo. Dunque, Buttafuoco, mi dica un'ipotesi alternativa, però sia realista, allora, non sia solo realista, immaginazione realista. Cultura, realismo politico. Realismo politico, come lo vede un leader di destra? Da pedone che attraversa la polis, e esiste un gruppo dirigente a destra che sta nascendo, e questo lo si trova giorno dopo giorno facendo politica, cioè governando. Fini, per esempio, fu un ottimo ministro degli esteri. Ma chissà, messo alla prova, questa è un'ipotesi, la lasciamo perdere, ma governando mi accorgo che, per esempio, se andiamo a verificare come vengono amministrate le città della Lega, vediamo delle fior di amministrazioni, ottime amministrazioni, degli ottimi sindaci, dei politici radicati nel territorio che mietono successi e sono riusciti a far impallidire perfino il ricordo di quelle che erano le efficienti e meravigliose amministrazioni della sinistra in Toscana o in Emilia. I leghisti, per esempio, riescono ad essere un gruppo dirigente, e non è un caso che in questi giorni Maroni abbia dato prova più che eccellente di saper governare a dispetto dell'assetto politico istituzionale ufficiale alla Zagrebeschi Bobbio. A destra che succede? A destra, proprio nella ragione sociale, in quello che doveva essere Alleanza Nazionale. Purtroppo credo che sia soltanto un tentativo legato alla persona, che è legittimo nelle ambizioni, ma che manca di progetto, perché, ripeto, ritengo che tutto sia stato fatto un passo indietro rispetto a quella rivoluzione che, bene o male, il berlusconismo ha portato in Italia, nella società italiana, sfasciando completamente quei dogmi inamovibili, quei dogmi per cui questa stessa comunità che Fini adesso ha buttato al macero era comunque una realtà di 1,5 milioni di italiani, di brave persone, che erano state da sempre considerati cittadini di serie B, e che se non ci fosse stato Berlusconi, né io né Mellone, oggi saremmo seduti qui avendo a disposizione un microfono. Perché Angelo ricorderà bene... È vero, siete stati discriminati per 40 anni. Angelo ricorderà bene qual era la massima che ci affidò Ezra Pound: la libertà di parola è meravigliosa, ma senza libertà di parlare al microfono non vale niente. Allora, noi non avevamo nessun valore prima dell'arrivo di Silvio Berlusconi, e questa è una considerazione da fare non egoisticamente, ma riferita a tutta quella che è la società italiana. Lo stai dicendo una cosa pericolosa, però io non faccio altro che trafficare col pericolo, infatti, appunto. Bella frase, stupendo, sembra di stare negli anni 20 perché alla Eliar, giustamente, essendo dunque, come detto, un Melone, sentiamo un attimo, poi le lascio rispondere. Risponda subito. No, volevo dire che, essendo buttafuoco un pedone che attraversa la polis, giustamente traffica col pericolo. No, appunto, grazie, mi hai ricordato quello che volevo dire, di come è governata male Roma, per esempio. Per esempio, invece di farne proclami politici, invece di farne retorica, invece di andare... Che poi si scatena sta gara terrificante. Ogni stupidaggine detta in alto loco viene moltiplicata poi nei piani inferiori. E la destra, purtroppo, è questo continuo inseguire non solo il politicamente corretto, ma il banale diffuso che vince solo sui giornali. Melone, sentiamo Davide della provincia di Venezia. Davide, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Ferrara. Buongiorno. Niente, io penso, come ho detto in relazione, che Fini, che è una persona lungimirante e molto sottile, non stia facendo altro che comportarsi come una parte dell'elettorato di Berlusconi e della maggioranza, nel senso che non contento di quello, o comunque non condivide pienamente quello che sta facendo la maggioranza e il governo, e la carica istituzionale che occupa gli permette di dissociarsi elegantemente. E questo, secondo me, mi riferisco anche all'elettorato di Berlusconi, perché io perlomeno faccio molta fatica a trovare qualcuno che abbia votato questa maggioranza e lo ammetta palesemente, proprio lo manifesti, mentre faccio sempre meno fatica. Io non l'ho votato Berlusconi, io non ho votato questo. C'è una sorta di vergogna nell'elettorato di Berlusconi nell'averlo votato. Ma questo una volta con la Democrazia Cristiana succedeva, no? Guardi, l'Italia è piena di entusiasti di Berlusconi che agitano bandiere, mutandine, qualunque cosa, pur di dire io ho votato Berlusconi. Mutandine, allora, Antonia da Roma, scusi Davide, diamo la parola a Antonia. Antonia? Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, volevo dire questo. Io penso che Fini sia senz'altro molto intelligente, però un piccolo di, non dico malignità, ma di dubbio viene. Io credo che nessuno possa tagliarsi completamente dalle proprie radici e radicarsi completamente da qualsiasi parte sia. Allora, Alfini ha capito che per succedere eventualmente a Berlusconi, o comunque per avere diciamo un posto importante nella storia italiana attuale e futura, non si può continuare, data non solo la politica italiana ma anche la politica internazionale, a difendere qualcosa che viene condannato dalla storia o quantomeno ufficialmente è tabù. Quindi ha fatto un passo che ha senz'altro un'importanza politica non solo italiana. E poi vorrei anche aggiungere una piccola cosa. Mi pare che il fatto di insistere sul fatto personale di Berlusconi, non voglio entrare qua nel fatto, però insomma mi sembra molto meschino, mi sembra quasi di leggere il vecchio Grand Hotel o chi, quando leggo su... Vabbè, su questo ecco, però è un'altra, mi sembra, è un altro tema. Sì, è un'altra questione, però insomma ecco un po' alla frutta. Mellone, Vultafuoco fa un grande sforzo di sincerità anche così, insomma, sì. Lo chiedo anche a lei. Adesso lei dice non è vero che Fini ha aderito a uno schema liberal democratico repubblicano, sì. Repubblicano di sinistra. No, non è diventato un uomo di sinistra. No. Mi dice in che cosa non è più un uomo di sinistra? Dov'è il nucleo fondante di, diciamo, di idee che può qualificare Fini ancora come il leader di un'Italia diversa da quella che è rappresentata da Giorgio Napolitano, appunto, da tutto il personale politico ex democristiano, ex comunista, eccetera, eccetera, che si ritrova nell'Italia costituzionale, ecco, l'arco costituzionale. Dov'è che Fini ancora interpreta qualcosa che viene da fuori di quella? Le potrei rispondere, come si dice, in chiave comparativa, nel senso che le cose che dice oggi Fini sono le cose che dice il leader dei Tories David Cameron in Gran Bretagna, sono cose molto simili a quelle che dice Nicolas Sarkozy in Francia. Esempio, prendo spunto da uno splendido reportage che sta facendo Giulio Meotti sul Foglio, bellissimo, il problema del multiculturalismo. Il problema del multiculturalismo, che è un problema, può essere affrontato o con un discorso di chiusura iperidentitaria, o può essere affrontato dicendo, perfetto, esiste un'asticella non solo di diritti, ma soprattutto di doveri di appartenenza dell'ipotetico ospite che arriva nel mio paese, e magari se quell'ospite vuole diventare cittadino, che deve essere alzata il più possibile in modo tale che io mi devo mettere al riparo, ma non in chiave, come dire, di reazione identitaria al nuovo arrivato, ma in reazione al fatto che esiste un insieme di valori, di appartenenze repubblicane che devono essere rispettate se tu vuoi essere mio ospite. La sinistra dice no, includiamo, accogliamo, tutta la polemica anche della CE che è stata fatta in questi giorni. Io penso che Fini dica io risolvo il problema del multiculturalismo, questa è un'ipotesi, io risolvo il problema del multiculturalismo dando alla cittadinanza, a chi vuole diventare... Quindi l'identità, ad esempio, nazionale, Fini la tiene per ferma, mentre lei dice la sinistra cosmopolita... Esattamente, l'identità nazionale è vissuta come scelta più che come dato biologico. È un'idea. Sì, un'ultima cosa, no, velocemente vorrei rispondere a quello che diceva Buttafuoco. No, se è per rispondere a Buttafuoco devo dare prima le strade in diretta, se è per concludere il suo pensiero le lascio la velocemente parola. Il berlusconismo, nessuno nega che senza Berlusconi staremmo tutti quanti a andare per stracci, come direbbe, quindi figuriamoci. Però detto questo, dire che il berlusconismo deve diventare la sesta religione civile della Repubblica, io ci andrei un pochettino cauto. Perché la sesta, questo figurino? Perché Robert Bellan ha scritto un libro in cui dice che le religioni civili italiane sono cinque: il socialismo, il liberalismo, l'attivismo, il provincialismo e il cattolicesimo. Adesso, per dirla alla Buttafuoco, QE questo Robert Bella è uno sociologo delle religioni, che le consiglio direttamente. Lo leggerò. La svolta di Fini o conversione? Andrea da Pavia, rapidi che abbiamo poco tempo. Andrea. Ah sì, mi ero distratto un attimo. Lo vedo. A me non è che convince, a parte che è lontanissimo dalle mie idee Fini. Sì. Però, cioè, quello che io dico è una cosa... Perché non lo convince? Perché non la convince? Un anno fa abbiamo avuto le elezioni, ma un anno fa lui queste cose perché non le diceva? Mi sembra un po' il nostro... No, presidente... su questo, Andrea, la invito a riflettere su una cosa. Dunque, la storia, per esempio, del voto agli immigrati l'ha detta 3-4 anni fa. Novembre 2003. Sì, 2003. Sì. Ecco, 2003. Addirittura 6 anni fa. Poi, parecchie cose, Fini, i segnali li ha dati, via. quello di spostare la destra un po' più a sinistra è roba di adesso, non è roba sì, ma... di qualche anno è roba della storia italiana, potremmo dire. Vabbè, Pino Rauti lo fece sfondamento a sinistra. Con Mussolini la sinistra si spostò molto a destra, diciamo, perché Mussolini era un socialista. Noi e poi abbiamo fece una destra molto di sinistra. Adesso abbiamo una destra molto spostata a sinistra. Battista, io penso che bisognerebbe affrontare almeno una questione prima di concludere. Bene. Qual è il volano, cioè la cosa importante, quella che poi spinge e fa decollare il progetto eventuale di Fini? Lo Stato laico? La laicità? Oppure qualcos'altro? Qual è secondo lei l'idea forza che, sulla quale Fini può contare per dare radici a questa sua funzione nuova, insomma, che si è scelto nel sistema istituzionale e nell'ambito delle idee del mondo di cultura politica italiana? Ma direi, elencando le cose dette da Fini, mi pare che lui esplicitamente punti sulla questione della laicità, a parte qualcosa sull'immigrazione. Insomma, è vero che poi lui è co-intestatario di una legge, la famosa Bossi-Fini, che venne considerata, per l'appunto, sarebbe interessante sapere se lui rinnega anche quella legge, no? Non so se questo l'ha detto oppure no. Certo, la laicità è uno dei terreni, nella destra è uno dei terreni su cui non è che tutti siano d'accordo, sulla linea, diciamo, più attenta alle motivazioni della Chiesa, alle motivazioni religiose, il caso Englaro e soprattutto adesso questo nuovo capitolo delle coppie di fatto, dell'apertura ai gay. La destra il centrodestra, come lo vogliamo chiamare, con la Lega, il PDL, il 45% dei voti. Secondo me dentro ci sono tante anime, tante case, tante opinioni. Ci sarà pure qualcuno, no, che non è, che per esempio sulla questione dei gay non la pensa esattamente come l'attuale maggioranza del centrodestra. Cioè, io trovo che quando si va verso un bipartitismo uno deve anche scontare il fatto che, a meno che non pensi che veramente esistono due blocchi culturali omogenei, monolitici e senza diversità interne. Guardate per esempio anche cos'è il Partito Repubblicano negli Stati Uniti, no? Cioè, a un certo punto c'è una linea dominante, ma esistono anche tante linee diverse. Certo, quindi, tanti mondi anche, non solo tante e quindi, linee, tanti mondi. E certo. Quindi questo credo che sia assolutamente naturale che possa accadere. Per concludere volevo chiedere grazie Battista, volevo chiedere a Buttafuoco questo. Dunque, è vero, hanno anche votato a destra, diciamo, del Popolo della Libertà circa 1 milione di italiani. È vero che c'è una comunità larga che non si vuole ridurre, non vuole essere assorbita, non vuole essere filtrata dai nuovi paradigmi politici, diciamo, che propone Fini, però non riesce a esprimere una leadership. Io ho molto rispetto e anche simpatia per Storace, grande battutista, uomo di governo non peggiore di molti altri, anzi, insomma, comunque ha dei tratti di sincerità spigliati, di disinvoltura, di sfacciataggine anche curiosi, interessanti. Però non c'è una leadership credibile a destra di Fini, non c'è. Come mai? Non c'è perché, bisogna riconoscerlo, in quello che è stato il passaggio cruciale dal Movimento Sociale Italiano ad Alleanza Nazionale, c'è stato anche un abbassamento di livello della leadership da allora, che ha determinato una sorta di gruppo forte di mestieranti, di professionisti della politica, che non avevano nessun contatto con la realtà vera, con la società. Non c'erano più dei personaggi che venivano magari da pezzi di storia, da pezzi del regime, che venivano da quella che era la società vera, quindi potevamo trovare dai liberi professionisti al proletariato, potevamo trovare uno spaccato d'Italia che si identificava con la realtà. In quel passaggio c'è stato il gruppo dirigente che, se si va a guardare nelle biografie di ognuno, non ha altra identificazione sociale che quella di essere un funzionario di partito e quindi di non avere nessun contatto con il reale. Secondo me questo ha determinato il fatto che, al di là delle figure più o meno carismatiche, quindi con Almirante che affida il futuro del partito a Gianfranco Fini, e ripeto, Gianfranco Fini è il più vecchio dei leader politici italiani, lo affida a un personaggio che della politica ne aveva fatto proprio un mestiere e quindi per forza di cose cadere in quella che è la pesca delle occasioni. È inutile dire quindi che anche a destra di Fini c'è quanto di più, e affettuosamente lo diciamo, di quanto si possa immaginare in quella che va è bene. Ho avviato una discussione su un fenomeno che resterà e quindi ne riparleremo. Ringrazio Mellone e ringrazio Pietrangelo Buttafuoco e Pierluigi Battista. In redazione Franca Fossati, Gloria Guerrero. In regia Alessandro Chiappini, Giorgio Mattei. In al GR poi Gianluca Nicoletti con Melo 2.0 in diretta dalla Fiera del Libro di Torino. Un bacio, ci sentiamo lunedì.